Il Signore Gesù ha ordinato di pregare il Padre perché sia fatta la sua volontà e il credente, sensibile a questo comandamento, ma non solo chiede che sia fatta la volontà di Dio, ma altresì cerca di metterla sempre in pratica. Eppure, se vi è una cosa molto difficile, è proprio capire come sia questa volontà di Dio, perché il volere di Dio non è sempre comprensibile, dato che meno, come sta scritto, meno i suoi pensieri e le sue vie non sono le nostre. Nonostante questo, chi ama servire Cristo e suo Padre, con santa testardaggine scruta ogni istante il volere di Dio, tenendo presente l'esistenza di tre aspetti della volontà di Dio che sono chiaramente descritti, anche se non altrettanto chiaramente compresi. Questi tre aspetti della volontà di Dio li troviamo nella lettera ai Romani al capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. 12.12. Per prima cosa, notiamo che Paolo esorta i credenti ad essere consacrati a Dio con tutto il loro corpo, come risultato di aver compreso l'amore di Dio. Questo primo aspetto è l'anima del cristianesimo. Chi non ha compreso che il desiderio di compiere la volontà di Dio sorge come risposta a ciò che Gesù ha fatto, prilega il cristianesimo ad una delle tante religioni dove esistono solo doveri stabiliti dalle norme religiose. Lo scopo di questa consacrazione è non solo di non essere trascinati dalle mode ingiuste della società, ma di poter conoscere la volontà di Dio, una volontà che è buona, accettevole e perfetta. Ecco i tre aspetti della volontà di Dio, aspetti che occorre prendere in esame in modo dettagliato e serio. Diversamente, la lettura della Bibbia si riduce ad un semplice gesto religioso, incapace di cambiare pensieri e abitudini. Che la volontà di Dio sia perfetta è più facile dirlo che accettarlo nella vita quotidiana. Se poi riflettiamo che il termine perfetto significa privo di errori, di mancanze o lacune, se accettiamo sul serio questa definizione in riferimento a ciò che Dio compie come essere umano non rigenerato dallo Spirito di Dio, vado seriamente in crisi. Com'è possibile che la volontà di Dio sia perfetta quando vedo attorno a me solo ingiustizia, violenza, bambini trucidati e vecchi maltrattati? Mi si risponderà che questa non è volontà di Dio, ma semplicemente l'opera dell'uomo incredulo o ingiusto. Ma se non è il volere di Dio in tutto ciò che succede, chi è dunque che permette questo? Chi è sovrano su questo mondo? Non è forse il Dio che si è rivelato agli ebrei e cristiani? È vero che Dio non vuole tutta questa violenza e ingiustizia, e perciò non si può attribuire tutto ciò che succede a una intenzione primaria di Dio, ma è anche vero che non si muove foglia che Dio non voglia. Sono più che mai attuali le parole pronunciate dal profeta Geremia circa 2500 anni fa, in occasione della distruzione della città di Gerusalemme e della morte di tanti bambini, vecchi e giovani. Quando uno schiaccia sotto i suoi piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno perverte il diritto di un uomo alla presenza dell'Altissimo, quando si fa torto ad un uomo nella sua causa, il Signore non lo vede. Chi mai dice qualcosa che poi si avvera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? Elm 3.3438. Mi chiedo se siamo in grado di accettare per vero ciò che Dio ha detto, perché questa è la perfetta, buona e accettevole volontà di Dio. Così, per affermare che la volontà di Dio sia perfetta, quando nel 2001 le torri gemelle in America vengono abbattute causando migliaia di morti e feriti, quando decine e decine di persone muoiono a causa degli attentati dinamitardi, quando delle persone innocenti vengono inesorabilmente falciate da un veicolo in corsa, occorre una buona dose di fede nella sovranità di Dio. E che dire poi di ciò che ci tocca più da vicino, come la morte improvvisa di un nostro figlio o genitore, meno casomai in un terribile incidente, meno o di una soluzione familiare che non si risolve. come un marito ubriaco che picchia costantemente la moglie o che non gli somministra ciò che è dovuto. Oppure una sposa che, anziché essere un aiuto convenevole, come la moglie di Giobbe, la quale invitava il marito a lasciare una fede incondizionata in un Dio sovrano. Colui che dice di credere in Dio tramite Gesù Cristo non può attribuire a Dio solo le cose positive della vita, perché facendo così, di fatto egli esalta il diavolo come colui che ha un'autorità superiore al Dio Trino, e riduce il Dio delle Scritture ad un semplice Babbo Natale capace solo di fare dei buoni regali. Proprio per questa immagine distorta di Dio molti credenti si sono fatti un idolatrico concetto dell'amore del Dio Trino delle Scritture, concetto che li condiziona negativamente nella comprensione della perfetta volontà di Dio e della vita stessa. Non dobbiamo stupirci se la maggioranza dei credenti vive una vita cristiana trascinata. La volontà di Dio è anche buona. Pure questo aspetto deve essere compreso. Il termine buono ha moltissimi significati e quello che più comunemente arriva al nostro immaginario comune è riferito a qualcosa di piacevole, gradevole, come un buon gelato o una buona torta. Se leggiamo che la volontà di Dio è buona in questi termini, abbiamo una fede irreale e siamo destinati a vivere miseramente qualsiasi opinione abbiamo di Dio. Per prima cosa occorre dire subito che la volontà di Dio non è affatto buona nei termini che noi comunemente pensiamo. Anzi, per quanto mi riguarda, la volontà di Dio spesso per me è veramente sgradevole e sul momento non mi reca gioia, ma tristezza e dolore. Se dicessi diversamente, mentirei prima davanti a Dio, poi a me stesso e agli altri. Che la volontà di Dio per me non sia buona, cioè piacevole o attraente, è dato dal fatto che sono meno come tutte le altre creature, meno una persona che ha bisogno di essere corretta ed educata, perché posseggo una inclinazione naturale al male e all'ingiustizia. Presa coscienza di questo, consideratolo seriamente, come può Dio insegnarmi a compiere il bene se non correggendomi del continuo? E la correzione, si sa, non è piacevole per nessuno. Lo dice anche la parola di Dio. Ogni correzione, sul momento, non sembra essere motivo di gioia ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Dunque, Dio stesso riconosce che essere corretti o educati non è né piacevole né gradevole, però, aggiunge, è per il nostro bene. Ecco dunque cosa significa che la volontà di Dio è buona, cioè è utile per noi, è per il nostro bene. Come sta scritto, Dio ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. Eb 12.10. Che la volontà di Dio non sia gradevole né piacevole è stato dimostrato anche da Gesù, il quale, dopo aver compiuto in ogni istante la volontà di suo Padre, sulla croce secondo, alcuni studiosi meno è morto di crepacuore, cioè di dolore. Forse qualcuno penserà che Gesù sia morto dal dolore per la sofferenza procuratagli dagli uomini, ma il suo massimo dolore è stato causato dall'abbandono di Dio sulla croce, nel momento più tragico della sua vita. Ma non deve sfuggirci che in quel momento Gesù stava niente meno compiendo la volontà di Dio. Per Gesù la volontà di Dio è stata buona, ma gli è costata la vita. Perciò occorre ritenere tutto ciò che succede come obiettivo di Dio per il nostro bene e progresso. Una fede meno di questa è ateismo e disonora a Dio. La volontà di Dio è anche accettevole. Questo aspetto ci rende responsabili più di quanto non pensiamo. Una cosa accettevole è ciò che si può accettare, e su questo non ci sono dubbi, per cui, anche se non comprendiamo la perfezione di Dio nella sua volontà, pur non vedendo tutto il bene che dovremmo vedere comunque sia, possiamo accettare qualsiasi situazione nella quale ci troviamo. Anche questa verità calata nel quotidiano, accettata e vissuta, è in grado di rivoluzionare qualsiasi esistenza, è in grado di produrre pace, serenità, interesse attivo per la vita, gioia, appagamento, rapporti costruttivi e di vitalità, gioia di ricevere e dare. Il che vuol dire che un matrimonio ritenuto sbagliato o fallito, dove invece l'uomo e la donna dovrebbero indentare le loro esistenza comune, può essere vissuto e accettato con tutti i suoi limiti, può essere il luogo per eccellenza per onorare Dio e dargli gloria. Oppure una relazione fraterna apparentemente insopportabile, se la si considera accettabile, ci si rifiuterà di trasformarla in barriere guardandola in un'ottica redentiva, cioè come un'occasione per fare del bene. Ho presente un fratello in fede che, per una stupida ragione, meno come spesso succede, meno non mi poteva né vedere né sentire, ma io costantemente lo salutavo, lo incoraggiavo, gli facevo i miei apprezzamenti con sincerità. E così venne il momento, dopo tanti anni meno, che un giorno mi sussurrò: «Ellero, ti voglio bene». Avevo vinto il male con il bene, questo è stato possibile solo perché ho creduto che quella situazione fosse accettevole. Però, a volte, nonostante sappiamo certe cose, vi sono situazioni per noi, e sottolineo, per noi, inaccettabili. E, allora, è necessario cambiare modi di considerare le cose. Ho presente una sposa che mi parlava di problemi irrisolvibili di coppia. La lasciai con un peso nel cuore, ma dopo un anno, quando la rividi, mi venne incontro tutta contenta, dicendomi: «Ellero, tutto è a posto». «Ma come hai fatto?» chiesi curioso. «Semplice», ripose lei. «Vi sono dedicata anima e corpo per una causa cristiana. Il problema non era risolto, è vero, ma altre attenzioni, altre attività, una mente occupata altrove l'ha aiutata a sdrammatizzare la situazione». «Sì, la volontà di Dio è accettevole. E quando non ci sembra tale, molto probabilmente stiamo vivendo con un atteggiamento sbagliato la situazione. Occorre avere il coraggio di non leccarsi le ferite, di non fare della sofferenza un nostro merito e gettare su Dio ogni preoccupazione perché ha cura di noi. PT 5.6. Anche quando tutto va storto. Altrimenti che fede è? Anche i pagani credono che la volontà di Dio sia buona, accettevole e perfetta quando tutto va bene. Vogliamo essere dei pagani o dei cristiani? Maggio 2008. Ellero.